Il disertore di Noè, 1809-1811, la chiamata del 1809. Eccoci arrivati, nella storia del nostro eroe, a un episodio oscuro e torbido sul quale, grazie a documenti irrefutabili, speriamo di fare luce il più possibile. Il parroco di Écouly aveva quindi ottenuto l'iscrizione del suo alunno fra gli esentati dal servizio militare. Come abbiamo visto, la legge non dispensava se non i chierici ammessi agli ordini maggiori. L'esenzione non esisteva per i semplici seminaristi lionesi, se non a titolo grazioso, per una tolleranza temporanea dell'imperatore. Ora, in quell'anno 1809, Napoleone era agli estremi. È preso tra due fuochi. L'Austria e la Spagna, minacciate di scomparire, chiamano alle armi. Gli spagnoli non vogliono riconoscere come sovrano Giuseppe Bonaparte. I marescialli di Francia lo imporranno ai rivoltosi. Quanto all'imperatore, parte contro il nemico a suo giudizio più temibile. Il suo genio trionferà ancora una volta a Eckmühl 22 aprile, poi a Wagram 6 luglio. Ma l'aquila perde quota, la sua stella comincia ad offuscarsi e si annunciano i primi rovesci. La Spagna non vuol confessarsi vinta e prolungherà la lotta fino al 1814. Per nuovi combattimenti sono necessarie nuove truppe, ma la Francia è ormai esausta. Già prima del 1807 la legge era dura. In quest'epoca essa divenne mostruosa e peggiorerà di anno in anno, fino a prendere per farne carne da cannone gli adolescenti che non hanno ancora l'età e gli uomini già esenti o riscattati. Così parla indignato uno storico filosofo che scrisse queste righe prima di aver conosciuto la legge del servizio militare per tutti e morto senza avere assistito alle più terribili ecatombi. Nel 1809 sono arruolate in anticipo due classi, nello stesso tempo sono incorporati tutti quelli che sono sfuggiti alla coscrizione del 1806. Della diocesi di Lione nulla era stato detto del privilegio che esentava tutti gli alunni ecclesiastici. Per una inattesa eccezione, solo Giovanni Maria Vianney e tre altri seminaristi erano chiamati sotto le armi. Che era dunque successo? Sia che Don Balei, credendo la cosa inutile, avesse omesso di ricordare all'arcivescovato che il giovane Vianney proseguiva negli studi, sia che i vicari generali avessero dimenticato di farlo iscrivere fra gli studenti seminari. L'ufficio di reclutamento arruolò con giovani delle classi 1810 e 1811 quel coscritto della classe 1807. Il suo foglio d'arruolamento diceva che, essendo destinato all'esercito dei marescialli, doveva raggiungere senza indugio le reclute al deposito di Bayonne. L'ordine di chiamata fu mandato da Dardigli a Écouly. Atterrito, Don Balei corse a Lione a spiegare il caso del suo alunno. Gli uffici di reclutamento rifiutarono di considerare come seminarista quello studente tardivo, alloggiato presso contadini in campagna, che riceveva le lezioni in una canonica, tanto più che il suo nome non figurava sulla lista ufficiale rilasciata dall'autorità diocesana. La nota che il vicario generale Courbon stese in favore del coscritto Vianney e che Don Balei presentava come un argomento decisivo arrivò a fatti compiuti, per cui tutte le pratiche intraprese non ebbero alcun risultato. A Giovanni Maria non rimaneva che obbedire. Ma che pena morale desolante! Presto avrebbe avuto 24 anni e negli studi era allo stesso livello di un alunno di 15 anni. Come arrivare al sacerdozio? In verità, Giovanni Maria poteva vedere in questa nuova svolta della sua vita la tomba delle sue più belle speranze. La legge permetteva l'esenzione a patto che si fornisse un sostituto volontario. Giovanni Maria supplicò il padre di acquistargli questo sostituto. Era l'unico mezzo per poter proseguire negli studi. Matteo Vianney, che sino allora aveva acconsentito alla vocazione del figlio solo a metà, fece dapprima orecchio da mercante. Non aveva già dovuto riscattare Francesco, il primogenito. Questa volta non ci poteva arrivare. Tuttavia, il dolore di quel povero ragazzo e le lacrime della sposa lo commossero. Preso il denaro disponibile, fece gli 8 chilometri che lo separavano da Lione per cercare il sostituto tanto desiderato. Un giovane, riferisce Margherita Vianney, accettò la sostituzione dietro il versamento di una somma di 3.000 franchi, di 200 franchi di regalo e di un piccolo corredo. Ma 2 o 3 giorni dopo, quel giovane venne a restituire sulla soglia della casa dei Vianney il sacco e i 200 franchi ricevuti. Giovanni Maria fu perciò obbligato a partire all'ospedale militare di Lione. Il 26 ottobre entrava come recluta in una caserma di Lione. Conobbe appena la vita di caserma, ma non ne conservò un buon ricordo, poiché la cattiva condotta dei compagni, le loro bestemmie, l'avevano profondamente colpito. L'accanito lavoro intellettuale precedente e le mortificazioni che si infliggeva a Ecogli gli avevano diminuito le forze. Lo minava una forte febbre, aggravata dal brusco cambiamento delle abitudini. Il 28 ottobre non poté alzarsi. Il medico della caserma ritenne grave la sua condizione e lo fece trasportare all'ospedale della città, nella sala San Rocco, riservata ai militari. Al governo non ho mangiato che un pane, dirà più tardi, facendo allusione ai 2 soli giorni che visse in caserma. Durante i 15 giorni che gli passò nell'ospedale di Lione, Don Balleì e tutti i suoi parenti prossimi di Dardigli vennero a trovarlo. «Ci andai anch'io», ha raccontato Margherita Humbert, sua cugina, che allora aveva 17 anni. «Ebbi la fortuna di passare con lui una parte della serata e di dividere con lui il frugale pasto. Mi parlò quasi sempre di Dio e della necessità di fare la sua santa volontà». All'ospedale di Roanne. Il 12 novembre un contingente destinato all'esercito di Spagna partiva da Lione per Roanne, dove le reclute dovevano proseguire l'istruzione militare. Giovanni Maria Vianney, convalescente, fece parte del convoglio, ma essendo troppo debole per camminare a piedi, seguì il distaccamento in una vettura. Non era ancora equipaggiato e della tenuta militare egli aveva soltanto il grosso sacco di ordinanza. Le scosse della vettura e il freddo già intenso gli procurarono una grave ricaduta. Tremante dalla febbre, fu condotto all'ospedale di Roanne e affidato alle cure delle religiose agostiniane. Qui doveva rimanere per 6 settimane. Fece scrivere alla famiglia. Francesco, il fratello maggiore, suo grande amico, si recò a trovarlo. Anche il papà e la mamma, inquieti, non poterono resistere e affrontarono il lungo viaggio. Giovanni Maria li consolò, disse loro il più tenero arrivederci, ma essi se ne tornarono a Dardigli con il cuore addolorato e con l'impressione che ormai il loro ragazzo era perduto per sempre. La madre pregò le religiose di sostituirla accanto al figlio. Raccomandazione superflua, le suore avevano notato fra gli altri quel coscritto tanto gentile, paziente, tranquillo. Quando poi lo videro recitare con tanta devozione il rosario, istintivamente si misero un poco a coccolarlo, come se fossero dinanzi ad un fanciullo un po' più alto. A questo proposito abbiamo la sua stessa confessione. Non dimenticherò mai le tenere cure che ho ricevuto da tutte le religiose di Roanne. Questo ragazzo, dicevano tra di loro, non potrà mai fare il soldato. Soccomberà durante la marcia di trasferimento in Spagna e, più caritatevoli che discrete, lo compiangevano perché presto doveva partire, ma egli rispondeva: «Mie buone suore, bisogna pure che obbedisca alla legge. Voi sarete più utili alla Francia pregando che andando in guerra. Vi ringrazio delle vostre parole, mie buone suore, vogliate sempre ricordarvi di me». Sulla strada di Renason. Il 5 gennaio 1810 un'ordinanza del capitano di reclutamento Blanchard comunicava al Vianney che era stato aggregato al distaccamento che sarebbe partito il giorno successivo per la frontiera della Spagna e che perciò il pomeriggio doveva passare per l'ora indicata dall'ufficio del capitano per ritirare il suo foglio di via. Giovanni Maria, diligente e pensieroso, uscì dall'ospedale un po' prima dell'ora indicata, così da avere tutto il tempo necessario. Sulla strada c'era una chiesa. il seminarista soldato vi entrò per pregare. Quante preoccupazioni da confidare al Signore! In quella chiesa, diceva, tutte le mie pene si sciolsero come neve al sole. Purtroppo su quel Tabor il santo giovane non si accorse del passare del tempo e quando si presentò alla porta dell'ufficio la trovò chiusa. L'indomani 6, festa dell'Epifania, Giovanni Maria Vianney, non ancora ben ristabilito, si equipaggiò per la partenza. Col sacco in spalla, all'alba si congedò dalle sue affezionate infermiere. Lo accompagnarono fino al cancello dell'ospedale e gli dissero addio con le lacrime agli occhi. Poi si diresse di nuovo verso l'ufficio di reclutamento. I soldati di servizio lo informarono che la colonna era partita senza attenderlo e naturalmente gli esposero con frasi colorite le delizie che lo attendevano. Entrato in ufficio fu peggio ancora. Il capitano Blanchard, convulso, gli parlò subito di catene e di gendarmi. A quelle minacce il coscritto si sentì un brivido. Compiangeva quei disgraziati giovani che avevano disertato e che venivano condotti incatenati tra imprecazioni e grida. Tuttavia, un subalterno osò intervenire. Quel povero giovane non si sognava di fuggire. Uscito appena dall'ospedale, si era presentato da se stesso ai suoi comandanti. Blanchard non insistette oltre. Gli consegnò il foglio di via e gli diede ordine di raggiungere almeno la retroguardia. Si mise da solo sulla strada di Clermont. Il pallido convalescente non aveva nulla dell'aspetto di un soldato. Il sacco gli pesava sulle spalle non abituate. Il passo era ancora malfermo. Come avrebbe potuto ricongiungersi con gli altri alla prima tappa? Fu preso dallo sconforto. Si rivolse a Dio e si mise a sgranare il rosario. Forse, confessava più tardi ad alcune persone di Ars, non l'ho mai ricevuto con tanta buona lena. Quello stesso giorno, 6 gennaio, veniva a fargli visita all'ospedale sua sorella Goton, che aveva fatto da sola il viaggio dai Cugli a Rouen. Appena apprese la partenza del povero fratello, rimase crudelmente sorpresa. Con Guido, il disertore. Intanto, passato Villemontant, Giovanni Maria raggiungeva i monti del Forez, ora squallidi, ora ridenti, che il viaggiatore ama contemplare. La nostra giovane recluta probabilmente aveva ben altri pensieri per la mente che contemplare la natura. La sua stanchezza era divenuta estrema. Si trascinava a stento sulle gambe malferme. Avvistato un piccolo bosco in cui avrebbe potuto proteggersi dal vento invernale, si allontanò qualche centinaio di passi dalla strada imperiale, attraversò un campo arato e si riposò un istante. Si trovava presso un sentiero che portava su per la montagna. Là, seduto sul suo sacco, per distrarsi dai suoi tristi pensieri, si mise di nuovo a recitare il rosario. Ricorrendo alla Santa Vergine, suo rifugio ordinario, la pregò con confidenza di non abbandonarlo. D'improvviso, ha raccontato egli stesso, mi si accostò un uomo sconosciuto che mi chiese: «Che fai qui? Vieni con me». Prese il mio sacco, che era assai pesante, e mi disse di seguirlo. Camminammo a lungo, nella notte, attraverso i boschi della montagna. Ero tanto stanco che facevo molta fatica a tenergli dietro. Quello sconosciuto, vestito da contadino, era un certo Guido di Saint-Prix-la-Prugne, località situata sui monti del Bois-Noir. Per sfuggire alla coscrizione si era nascosto con molti altri renitenti tra i boschi del Forez. Guido si tirava dietro verso un destino simile al suo, quel coscritto isolato, incontrato per caso. Giovanni Maria, fiducioso, non ne sapeva nulla. Egli sapeva solo che non ne poteva più dalla stanchezza e bruciava dalla febbre, che aveva bisogno di un ricovero per la notte e che il suo plotone di marcia era già lontano. I due viaggiatori si inoltrarono tra i monti tormentati in gole sinuose in cui scorreva un torrente incassato, il torrente dei Crescet, ingrossato per le piogge invernali. Così passarono all'altezza del villaggio di Noè, che si lasciarono sulla destra. Si trovavano nella foresta della Madeleine, ai confini dell'Allier e della Loire. Oggi soltanto le cime sono coperte di alberi. In quei tempi i Noè non erano che un'isola sommersa in un mare di verde. Cammin facendo si misero a discorrere. Guido, senza ancora farsi conoscere, facendogli il favore di portargli il sacco, si era guadagnato la confidenza di Giovanni Maria Vianney, il quale non temette di aprirsi a quel contadino e di dirgli chi era. «Non hai proprio la faccia di un soldato», replicò l'altro. «È vero, ma io devo obbedire. Se vuoi seguirmi, io ti nasconderò nel nostro paese che è tutto circondato di boschi. No, i miei genitori hanno già avuto abbastanza fastidi. Oh, stai tranquillo, ce ne sono anche molti altri nascosti qui». Che fare? Al povero ritardatario non restava che seguirlo, almeno per quella notte. Il giorno dopo si sarebbe visto. Perciò s'abbandonò nelle mani della provvidenza. Il villaggio di Noè è situato a 660 metri di altezza. Guido era pratico dei sentieri. I due viaggiatori salirono ancora più in alto fino alla capanna di uno zoccolaio, conosciuto in paese col soprannome di Gustin. In realtà egli si chiamava Agostino Chambonnier e abitava con la sua giovane moglie in quella solitudine. Guido bussò, disse chi era e si aprì la porta della povera capanna. Il giovane soldato non ne poteva più dalla fame e dalla stanchezza. Gustin gli diede qualche cosa da mangiare mentre sua moglie cambiava le lenzuola dell'unico letto che c'era in casa. Giovanni Maria vi cadde subito, addormentandosi in un sonno profondo, mentre gli altri tre andarono a riposarsi in uno strato di paglia. Il giorno dopo, bisognava ben guadagnarsi il proprio pane, Guido condusse il compagno alla cascina di Claudio Torner, che li occupò per due giorni a segare tronchi di faggio. Essi si offrirono per rimanere ancora, ma il signor Torner, quantunque avesse molto lavoro in quella stagione, accettò di occupare soltanto il più robusto. Guido seguitò quindi a lavorare presso di lui. Giovanni Maria Vianney dovette cercare altrove. Egli si recò al ponte, nel comune di Noè, a chiedere di fare scuola nella frazione. Si rivolse ad Antonietta Mivier, vedova Prefol, che a malincuore dovette rifiutare i suoi servizi, dato che aveva già un maestro. Dal sindaco di Noè. Le cose si complicavano. Il coscritto Vianney, abbandonato, sperduto fra quelle montagne, era divenuto senza premeditazione un disertore. Si presentò al sindaco del comune, signor Paolo Fayot. Costui, un semplice agricoltore, abitava non a Noè, ma a 2 chilometri più su, tra i monti, nella frazione di Robins, che si innalzava con alcuni prati sopra uno sperone di roccia su ripidi pendii. Paolo Fayot ha lasciato a Noè il ricordo di un uomo eccellente. Del resto, gli elettori del comune hanno scelto la maggior parte dei suoi successori nella sua discendenza o nella sua parentela. Ma egli aveva un modo tutto proprio di applicare le leggi dell'impero. In quel mese di gennaio 1810, in cui Giovanni Maria Vianney andò ad affidarsi a lui, egli teneva già nascosti in casa sua due disertori. L'arrivo di un nuovo renitente non parve fargli molto piacere. Egli aveva una numerosa famiglia da mantenere, ma soprattutto c'era il fatto che la gendarmeria di quando in quando esplorava quella contrada boscosa nella quale i fuggitivi pullulavano, quasi vi si fossero dati appuntamento. E i gendarmi, neanche a farlo apposta, venivano proprio a rifocillarsi e a dormire da lui. Paolo Fayot, sindaco di Noè. Avrebbe tuttavia lasciato quel povero ragazzo senza protezione e rifugio? A denunciarlo non ci pensava neppure, condividendo a proposito del servizio militare le idee di molti suoi contemporanei. Egli rassicurò il giovane di cui aveva in mano le sorti, gli spiegò che era troppo tardi per tentare di raggiungere il suo distaccamento, che ormai era già considerato come disertore, e quindi non gli rimaneva altro da fare che cercare di sottrarsi alle ricerche dei gendarmi. Infine, giocando anche questa volta da audacia, il sindaco gli assegnò come residenza la casa di fronte alla sua, quella di sua cugina Claudina Fayot. La donna era rimasta vedova con 4 figli, di cui il maggiore non aveva che 14 anni, ma si sapeva che era buona e caritatevole. Del resto la si sarebbe aiutata a mantenere il fuggiasco. Fu accordato che per sviare le ricerche Giovanni Maria Vianney avrebbe adottato il nome di Jérôme Vincent. Jérôme Vincent in casa di Claudina Fayot. Claudina Buffaron, vedova di Pietro Fayot, era davvero un cuore d'oro. Aveva 38 anni, valida al lavoro, si occupava attivamente della cascina. Caritatevole, soccorreva i poveri, prelevando per essi un pane da ogni fornata. Ella accolse quel malcapitato che le veniva affidato in modo così strano. Dopo essersi assicurata l'iscrizione dei suoi ragazzi, facendo passare il nuovo venuto per un cugino che veniva a rifugiarsi nella cascina, Claudina stessa usò estrema prudenza. Il renitente si tenne dapprima nascosto durante tutto il giorno. Passò i primi 2 mesi nel granaio o nella stalla attigui alla casa del sindaco. Le pattuglie, se fossero venute, non avrebbero sospettato la sua presenza. Per scrupolo di precauzione, per 8 lunghe settimane, la madre Fayot, così veniva comunemente chiamata, portò da mangiare al coscritto in un secchio di legno, come faceva con gli animali. Calata la notte, il povero sequestrato usciva a prendere un po' d'aria e veniva a conversare con i membri della famiglia. Leggeva loro il Vangelo o la vita dei santi, raccontava loro le belle storie che aveva appreso da Don Balley o da sua madre. Con la sua bontà li conquistò tutti e li edificò con la sua pietà. Gerolamo Fayot, più giovane di lui di 15 anni, nella sua vecchiaia ricorderà ancora i bonari buffetti che il cugino gli dava col cappello quando non recitava bene le preghiere della sera. In un angolo della scuderia, vicino a una finestra, era stata preparata dietro un tramezzo di assi una camera. In quel bugigattolo Giovanni Maria Vianney condivise il letto con Luigi, il più vecchio dei ragazzi che aveva 14 anni. Ma non ebbe a lungo quel compagno perché il povero Luigi non riusciva a chiudere occhio. «Mamma», disse piagnucolando dopo 3 notti, «il cugino passa tutto il tempo a pregare, non mi lascia addormentare, non voglio più restare con lui». La madre Fayot dovette preparare nella stalla un secondo letto per il suo ragazzo. Il nostro renitente suo malgrado non voleva rimanere ozioso, ma l'inverno aveva sospeso il lavoro dei campi. In quei monti del Forêt la neve cade ordinariamente molto abbondante e ricopre a lungo la terra. A Robin, Jérôme Vincent riprese in considerazione un'idea che aveva cercato già di realizzare. Si fece maestro di scuola. Gli analfabeti erano molto numerosi ed era bene che imparassero almeno a leggere la messa. I ragazzi della vedova Fayot e alcuni altri giovani e anche uomini fatti vennero alla cascina a prendere lezioni di lettura, di scrittura e di catechismo. Nessuno apparentemente giudicò sospetta la presenza a Robin di quel giovane che aveva tutto l'aspetto di un contadino. Del resto Guido, il disertore, rimaneva nascosto nella foresta di faggi e solo il sindaco e sua cugina Claudina conoscevano il vero nome del forestiero. Tuttavia Giovanni Maria attese un po' di tempo prima di discendere fino al villaggio di Noè, in cui ogni mattina veniva celebrata la messa. Il suo cuore soffriva sentendo suonare la campana e non potendo rispondere alla sua chiamata. Infine, dato che durante la settimana il parroco Don Chaquet, un antico confessore della fede esiliato durante la rivoluzione, celebrava assai di buon'ora, Giovanni Maria si arrischiò ad andarvi una prima volta nelle tenebre. Entrò nella chiesa quasi deserta, si confessò e fece la Santa Comunione. In quei villaggi isolati sui monti è usanza la domenica mattina lasciare sempre qualcuno a casa. Questa persona deve unirsi con il pensiero ai parenti e amici che più fortunati assistono alla messa. Il suono della campana, tanto suggestivo fra i monti, la informa a che punto è la cerimonia. Giovanni Maria Vianney fu per un po' di tempo il guardiano domenicale. Da Robin a Noè la discesa è molto ripida. La strada, malmessa, è ingombra di grosse pietre. Perciò la madre Fayot non conduceva con sé la sua beniamina Claudina, che aveva soltanto 3 anni. Quel giovanotto di 24 anni si occupò dell'innocente, come lo avrebbe fatto il migliore e più delicato dei fratelli. Si divertiva del suo cicaleccio, prendeva parte ai suoi giochi innocenti. Ma durante l'ora della messa cantata stava molto raccolto, faceva inginocchiare la bambina vicino a sé quando suonavano l'elevazione e cercava anche di istruirla. Un giorno, dopo la messa, la domestica disse ridendo alla bambina: «Claudina, su, abbraccia tuo cugino per ringraziarlo di averti custodita». Con gesto di squisito pudore, Giovanni Maria Vianney scostò dolcemente le piccole labbra che si tendevano. La madre sgridò la serva e le ordinò di non dir più sciocchezze.